listening to Rock FM Kick Ass. La domanda del test attitudinale di quest'oggi riguardava una celebre pellicola cinematografica, ovvero la trasposizione filmografica di Tommy degli Who. Vi chiedevamo chi interpretava il personaggio della Acid Queen, della regina dell'acido. Avete azzeccato? Chissà, tra l'altro vi segnaliamo questo bellissimo film, ricordando capolavoro. Un capolavoro, ricordando a tutti che gli Who, il gruppo autore del capolavoro in questione, lavorarono per molto tempo a questo concept album, dando il via a questa nuova moda di concepire un album su un argomento specifico. Le cosiddette rock opere. Le rock opere, una storia bella. Ma una arriviamo storia alla sì. risposta. Lei temporeggia, ci sono centinaia di persone là fuori che vogliono sapere se la Acid Queen era Tina Turner. Ma l'ho fatto soprattutto per dare loro tempo. Era Tina Turner? Io preferirei partire dal terzo. Forse Freddie Mercury? No, non era decisamente Freddie Mercury. Era allora al contrario, la B, Janis Joplin? Ahimè, neppure questa. E allora Tanato, perché era la A, Tina Turner. La grandissima Tina o Tina Turner. No, Tina me l'ero inventato sul momento. Però Fred. Tina è molto Stava americano, bene. È molto americano. Tina, Mr. Tina. No, Tina Turner, grandissima. Era lei, la Acid Queen. Bravi, se avete azzeccato. Tra l'altro tutti bravissimi gli attori, anche gli stessi Who, i musicisti degli Who coinvolti nel film, furono tutti bravissimi. Se non vi siete mai visti Tommy, guardatevelo. È un must, è un obbligo. Tommy non potete, non dovete perderlo. Sia il disco, capolavoro, che il film alla stessa altezza. If you child ain't all he should be now, this girl can put him right. I'll show him what he could be now, just give me. Child ain't all he should be now. This girl. che roba! Di Acid Queen, dicevo. Spadino, anche tu non sei messo bene stamattina. Ce la siamo gustata in tributo alla domanda del test attitudinale di quest'oggi, nella versione originale, nella versione interpretata e cantata dagli Who. Mentre ovviamente Tina Turner la cantava nella versione cinematografica, che gran capolavoro. Io ne avrei parecchio bisogno stamane della Acid Queen, e credo anche molti di voi là fuori, sicuramente quelli che stanno viaggiando insieme a noi già da un'ora e mezza, e un benvenuto caloroso anche a chi invece si aggiunge agli ascoltatori di Pane, Burro e Rock and Roll solo in questo momento per l'ultima mezz'ora di questa nona puntata. Gli altri già sanno le condizioni nelle quali stiamo affrontando questa diretta. Per voi nuovi, prendete un po' questa puntata per quello che è. Non ragionateci su troppo, stiamo messi un po' male. A proposito di gruppi d'ascolto, il benvenuto a Gio22, gruppo d'ascolto senza volerlo. Ovvero quelli che vengono svegliati dalle martellate al muro vicino alla propria camera. E poi da Pane, Burro e Rock and Roll, bravo. Sì. Mentre devo sgridare, fatemelo ritrovare, come faccio a ritrovare gli sms? Cioè, Viola, eccola qui. L'ho fatto, ragazzi, ho acceso sia la radio che il computer, così vi ascolto sempre anche quando cambio stanza. Sono o non sono rock? Sei rock, Viola, sicuramente. Però per seguire meglio il consiglio che diamo, promozionando i programmi in archivio di Pane, Burro e Rock and Roll, nel computer non dovresti ascoltare la diretta, nel computer dovresti ascoltare la puntata di ieri o di 3 giorni fa. Così hai doppia razione di colazione. A volte non, sì, fa un po' in conflitto. Però tipo nell'orecchia destra metti la puntata di oggi, in quella sinistra metti quella di ieri, qualcosa dovrebbe saltare fuori. Bravo, cazzo, ci hai fatto ridere, Ariele. Complimenti, pollice su, sei in squadra con noi. E mi faccio perdonare subito con lui, Mr. John Lennon. Ehi, ragazze là fuori, questa è per voi, pupone. Woman is the nigger of the world. Yes, it is. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We made her paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. Cantatevela un po' anche voi là fuori, che facciamo splendere il sole. Su, dai! We make a better raise our children. Then we leave a flat with being a fat old mother hen. Tell her home is the only place she should be. Then we complain that she's too unworthy to be our friend. We'll be right back. has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free. Why tell her not to be so smart? We put her down for being so dumb. Parole, ve lo promettiamo giorno dopo giorno, il miglior risveglio in circolazione, John Lennon, Woman is the Nigger of the World, e che se... andiamo giù dritti stamattina, Janis Joplin, Get It While You Can, però dovete cantarla ragazzi, sennò non funziona, In this world, if you bring the papers down, you know everybody's fine. You got no one you can count on, baby. Not even your own brother. So if someone comes along, he gonna give you some love and affection. Taking a gamble on a little song. We'll be right back. premia quello che arraffa quello che puoi. Più o meno in una traduzione mia. Get it while you can, Janis Joplin. Ok ragazzi, io posso andarmene a dormire adesso. No? Ancora un po'? Ancora quasi un quarto d'ora scarso. Dai, Gliafo. Dai, Cagliafo. Giovedì 13 settembre. Ciao a Tritolo di Lucca. Figo Tritolo come soprannome. Piace un sacco. 17 anni, sembra ieri, sempre presente. Cos'è, un pensiero al topo frigo? No, 17 anni è un po' tanto. Meno di 17 anni. Vabbè. Vorrei segnalarvi la notte bianca a Genova sabato prossimo con PFM, Crozza e altro, musei aperti e c'è e c'è. Maurizio, grazie! Sono un direttore di divisione aziendale e sono un amante del rock di vecchia data. Se uno dei miei arriva in ritardo con una scusa di Fricantoni, cosa devo fare? Non potete aiutare anche noi poveri direttori rocker? Hai ragione da vendere, caro direttore. Ne ragioneremo con la redazione e le faremo sapere. Intanto grazie per averci segnalato. Buongiorno, se avete moto, Piaggio, Gilera o Aprilia, ebbene, io ho 18 anni che mi cimento in montaggi, saldature e sistemi robotizzati. Che mestiere? Lo sciacca, lo schiaccia. Anche, guardate che avete dei soprannomi veramente forti. Anche Mauro, anche All Kids. Un saluto, ciao Topone. Un saluto ad Anna Paola, dalla Sardegna che conta. Prima o poi pei in Sardegna, ci puoi scommettere sorella, tu sei in squadra con noi. Oh, il nuovo tormentone questo, vi piace? Come piace un sacco. Spadino, tu non sei in squadra con me. Bacisa! Maestro, buongiorno, alla festa il 6 suoneranno gli Schiantos. Tu stai parlando del compleanno di Rock FM. Guarda, no, per quanto riguarda il compleanno di Rock FM, non è prevista l'esibizione degli Schiantos, sicuramente è prevista la presenza di Freak e quindi con la Rock FM on Star Band, adesso non spargete troppo la voce, ma un paio di classici Schiantos io ce li infilerei. E anche Freak annuisce. Mentre per quanto riguarda Schiantos, vi segnalo io un'altra cosa. Aspettate che mi guardo nell'agenda, che se no... No, c'ho il telefono spento. Sì, ve lo dico dopo. Un appuntamento importante dove qui a Milano, a Cascina Monlue, ci saranno gli Schiantos e ci sarò anch'io. Quindi ci sarà puzza di pane, burro e rock and roll. Ci sarà anche tu, Spadino? Dici di sì? Bene. Così ti presentiamo ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Smanettoni all'ascolto, è arrivato il momento di far finta di suonare la vostra chitarra immaginaria. Anzi, non di far finta di suonare veramente la vostra chitarra immaginaria, così suona meglio. You really got me, Vanilla! È il sentito che pronuncia. Score. Attacco col rullo. Senti qua che roba. Senti come lancia. Yeah. Don't ever let me be. I only wanna be by your side. Please don't ever let me be. I only wanna be by your side. Certo che a volte la vita è strana, certo che a volte la vita è strana per davvero, lo scopro ogni giorno dando il buongiorno a Fricantoni, ma soprattutto grazie alle notizie del reparto strano ma vero della nostra redazione. Certo, il paradossale entra nella nostra vita e dalle frequenze di Rock FM arriva nelle vostre case. Guardi, mi giunge orora una velina fresca fresca di stampa. Le va di aiutarci? No, posso credere ai miei occhi. Già il titolo potrebbe bastare. Prego, maestro. Diacono tenta di strappare testicoli ad un tifoso avversario. Buona! Andiamo a sentire di che si tratta. Un cappello, il quale dice, leggo testualmente dalla notizia, l'amore, dalla notizia scritta, l'amore per la squadra del cuore spesso porta i tifosi, lo sappiamo bene noi italiani, ad avere degli scontri verbali molto accesi con le controparti. Ma a volte può succedere che qualcuno si spinga ben oltre, d'accordo. Nella prova il comportamento del diacono di una chiesa, il signor Allen Beckett di 53 anni, complimenti al signor Allen Beckett di 53 anni, che alla fine di una partita di football americano si è avventato in modo poco ortodosso contro un rivale. Non contento di averlo aggredito verbalmente, il malcapitato ha tentato di strappargli via a mani nude i gioielli di famiglia, i testicoli. Secondo la rete televisiva NBC, che ha riportato la notizia, l'uomo di fede, forte sostenitore dei Sooners dell'Università dell'Oklahoma, ha iniziato a litigare con un tifoso sfegatato dell'Università del Texas, il rivale tradizionale. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve. La situazione è ben presto degenerata. Dal rapporto della polizia di Oklahoma City risulta infatti che Beckett ha... No, questa non la leggo. No, freak. No, in effetti... Potete immaginare, gliel'ha fatto decisamente male. Lesionati. Sa con che immagine vorrei chiosare? Non so se lo ricorda, un film del cinematografia 80 italiana con un Lino Benfi che viene sollevato dalla squadra di tifosi e i tifosi gli prendono mi avete preso per un coglione per due coglioni forse, il grande Lino Banfi, un omaggio. Chiuderei citando Banfi, che forse è meglio. Infatti non strappate i gioielli di famiglia a nessuno. Ma insomma poi dopo voglio dire, a parte tutto, anche un uomo di chiesa, un uomo di fede. Ma signor strano, Allen, ma vero. Insomma, strano, ma il vero. Tifo a volte è una fede più fede della fede. Forse il tifo che sia una fede al quadrato. Vado a riflettere. Dove va? Ma lì c'è il bagno. Dove va DJ Ariele? Avete preso per un coglione. Ma no, sei eroe! Ah, avete preso per un coglione? Ma no, sei eroe! Avete preso per un coglione sotto la vera, mi fa male! Thank you. But I have tequila. È finita! Questa è la fine! My only friend, the end. Spadino, vai con la sigla! Che roba, ragazzi! Noi abbiamo scelto di essere dei veri rocker. Se lo avete scelto anche voi, benvenuti! Siamo in due. Burro e rocker. Beh, siamo noi e voi, più di due, alla fine. La tua colazione. Se fai il calcolo preciso, siamo in tanti. Pane, burro e rock. La missione si chiama Davide contro Golia. Spargete la voce e la nicchia vincerà. Vinceremo noi. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ogni giorno alla mattina una garanzia. Spadino, troppo che ce l'ho fatta, senza dormire, fino alle 9, guarda, sono più sveglio di te adesso. Yeah, beccati questa. Vi lascio in compagnia di Marco Garavelli fino a mezzogiorno, noi ci si risente domani. È stato un vero piacere tenervi compagnia anche quest'oggi, nona puntata di Pane, Burro e Rock and Roll, che finisce nell'archivio su www.radiorockfm.com. Ciao ragazzi, sono un cazzo di numero uno, ce l'ho fatta.